L'aeroporto cosiddetto militare, c'è una piccola pista o qualcosa? No, c'è solo la pista e il piazzale da dove passano gli elicotteri. Ero convintissimo, guarda, ci avete a scommettere che ci fosse una pista loro dedicata a me. Come fanno? Spiegami un attimino, se c'è tutta l'operatività civile e deve partire un aereo o decollare o atterrare un aereo militare. Cazzo, io. Centinaia di voli uno presso l'altro, anche se ci fossero, capito? Se tu prendi l'aeroporto, che ne so, di Ciampino, no? C'è l'aeroporto militare lo stesso lì, la torre è unica, capito? È gestita dall'ENAV, capito? E fa sia militare che civile, ma in contemporanea loro possono, diciamo, operare su centinaia di voli. Sì, no, ma quello che io voglio capire, la gestione di una cosa militare, cioè devono essere dei militari, come fa un operatore di controllo civile a gestire la cosa, l'operatività dei militari? Break. Registrato. Sì, perché praticamente le frequenze dell'aviazione sono quelle uniche, capito? Sia per il civile che per il militare. Poi loro, i militari, passano sulle altre frequenze loro quando sono in volo e magari devono comunicare con altre stazioni, capito? Però per ordini di, diciamo, decollo e atterraggio le frequenze sono per tutti uguali. No, io no, scusami ancora, io non parlo di frequenza o non frequenza, naturalmente. Io sto parlando, un direttore della torre è un civile o è un militare? Quello che voglio capire. Sono civili, ma l'80% del personale torre e l'ENAV sono l'80% tutti ex militari che poi se ne passano al civile, capito? Perché io sto dicendo per il fatto del segreto, cioè se viene un bombardiere, un caccia, una cosa del genere, e c'è la priorità di atterrare, deve atterrare perché deve fare intervento, deve partire per un'emergenza, cioè chi lo decide di lì? E lì ci sono le priorità, capito? Loro chi lavora in torre, quali sono, molte volte arrivano i voli ambulanza, no? Per esempio, sono gestiti dall'aeronautica militare, quindi loro chiamano a dire volo ambulanza, chiamano la torre di Alghero a dire volo ambulanza, priorità, e tengono in aria, per dire, un Fiumicino che era in fase di avvicinamento, gli dicono fatti un altro giro perché abbiamo un volo ambulanza dell'aeronautica, quindi fanno atterrare prima quello e poi l'altro. Ciao, vai a tu. Ciao, buonasera a tutti. C'era qualcuno poi dava qualche colpo importante quando parlavi tu, Carlo, che non so chi sia. Avanti, che vuole entrare. Io ero che stavo guardando lo Smith, non ti preoccupare. Ah, tu lo stavi schiacciando, no? Sentivo sotto appena non gli facevi niente, però avevo qualche colpo importante. E vediamo se Gianni c'è rimasto ancora. Avanti, Gianni. Ero nel QT a Capicolino. C'è mezz'ora che tu QT a Capicolino, sei ritornato adesso. Cazzo. L'avevo già avuto un po' di volte, non era piccolino, era grande, un laghetto, dai, non era piccolino. Ok, di nuovo a Carlo, dai, conversazione interessante, a me non si parla delle solite cose classiche, stiamo parlando, ci facciamo una cultura di campo militare. E lì ha atterrato anche un B-52, o sbaglio, anni fa, confermi Carlo? Sì, esatto, perché comunque una delle caratteristiche della pista di Alghero è che è abbastanza lunga e, se vogliamo, anche larga, capito? E può, diciamo, far atterrare anche quella tipologia di aerei lì, solo che è limitata, capito? E non è che può gestire grande traffico con quegli aerei lì. E già lo so, è un aereo più grande, uno dei più grandi aerei del mondo come dimensione, c'ha 4 quadri motore, una bestia di aereo, è più grande degli aerei civili, quelli sono i bombardieri strategici che usano gli americani, ce li hanno solo loro quegli aerei di quelle dimensioni, perché gli altri utilizzano altri tipi di aerei, le altre nazioni, a parte i russi che hanno gli Antonov. Comunque è una bestia, come mai, cos'era? È un'emergenza, cos'era successo? No, magari era qualche volo particolare o doveva fare scalo oppure rifornimento, non era emergenza, però me lo ricordo bene, mi sa che l'avevo anche visto quello, è allo stallo 21 in fondo, perché lì c'è spazio, capito, perché quelli hanno un'apertura alare molto, molto grande, capito. Sì, sono oltre 70 metri, sono pochi aeroporti in condizione di riceverli. Ok, altro di nuovo a te. Grappa, grappa. E via. stavo dicendo. Belli grandi sono questi, gli sì, però americani sono. Quelli sono, ma i bombardieri possono rimanere 24 ore su 24 in volo, li fanno rifornimento in volo. Sono sempre, ce n'è sempre uno sopra l'Europa di quelli che gira, in punti pericolosi, diciamo. Sono i bombardieri nucleari strategici, quelli appena arrivano a un coso, subito tac, sono pronti a intervenire. Sono sempre in volo quelli aerei. Per forza. E ogni tanto ne cambieranno uno, ogni tanto, ma ripiazza l'altro, che avranno le ore di volo, non è che munisca sempre, ogni tanto ne ripiazzeranno uno, capito? E poi va l'altro, anche i cosi, anche i cosi, anche i piloti devono scendere. Sì, sì, no, ma io dico, stanno 24 ore di volo, non ce ne sono, i piloti ce ne saranno 4 minimo, si fanno i turni, ma possono stare ininterrottamente giorni e giorni in volo, perché tanto c'hanno rifornimento quelli lì, e poi li sostituiscono per questioni logistiche loro, non puoi tenerlo tanto tempo lo stesso aereo, però volendo possono rimanere giorni e giorni, perché il carburante glielo provengono le aerocisterne e li ricaricano. Purtroppo è necessario. E quelli non è che il consumo sia poco, non so quanti, al secondo, quanti litri al secondo di carburante consumano. Ciao Antonio, buonasera. Buonasera Carli, a te la parli nei vostri chiti. Non ho capito chi sia, aspetta, lasciamo un attimo di bianco, voglio capire di dove sono. La tipologia di aerei grandi, ci sono tutti i segnali anche per terra, attenzione, jet blaster, quindi devi stare a una certa distanza, perché se dovesse esserci uno di quegli aerei, tu ti metti dietro quando accendi i motori, sai dove finisci tu con la macchina, a capocaccia. Ma poi sono quadrimotore quelli lì, c'hanno poi i carrelli che sono grandi, cacchio, le ruote quanto una panda. Esatto, sono enormi, sono, fanno, a vederli da sotto fanno insomma anche paura, a dire come fa una cosa così enorme a stare in volo, capito? Però ce ne sono, io ne ho visto diversi di quegli aerei, sono uno spettacolo da vedere da vicino. No, io non li ho mai visti, ho visto il C-130, quelli da trasporto, i soliti, quelli che abbiamo anche noi, l'aviazione, ho visto i Boeing 747, 757 a Fiumicino, quelli grandi, però bombardieri di quelle dimensioni non li ho mai visti. Io già li ho visti perché qualche aeroporto l'ho girato, capito? Bello è quello che ha usato qualche settimana fa, è partito Mattarella, no? Che era in Sardegna, è venuto a Sassari e quindi è arrivato dall'aeroporto militare, uscito da là, praticamente dove c'è l'agriturismo, le pinnette, hanno l'uscita lì anche l'aeroporto, escono da lì tutti i mezzi, diciamo, militari quando escono le autorità. E loro usano quei Falcon veloci, capito, bianchi, e sono anche quelli dell'aeronautica militare, ma sono dei missili quegli aerei. E li ho visti, sono molto affusolati come cosa. Ma le pinnette, è operativo? Mi proprio oggi stavo parlando delle pinnette, sta lavorando? Penso di sì, lì in quella zona penso che abbiano ripreso tutti a lavorare, perché con la pandemia sono stati 2 anni proprio di buio totale e quindi molte attività sono andate in crisi, ma io spero, quello lavorava bene, faceva anche comunioni, anche matrimoni penso, perché più che agriturismo era un agrivistoro, ha iniziato come agriturismo, poi si era ingrandito, capito, hanno parcheggi anche abbastanza grandi, spazio, e quindi però è un bel posticino, dai, ci sono andato diverse volte io. Ce lo dice, numero uno, manca, quello del padrone dell'olio San Giuliano, numero uno, Cristo Turismo si chiama, quello che è micidiale, bellissimo posto, il servizio eccellente, roba da mangiare eccellente, numero uno, io ne ho girato decine, ma quando devo portare a qualcuno lo porto di lì, quello è il numero uno, chiamiamo l'agriturismo, ma è più di un ristorante quello. Gianni, andate a te, tu che aereo c'hai, un Piper o un coso? Che cavolo di aereo c'hai Gianni? Ma io aerei no, avevo la moto con i colori di un caccia intercettore russo, se ben ti ricordi. Mi sa che te lo ricordi anche tu, te l'abbiamo fatto noi mi sembra, quel caccia, cos'era? Uno Sikorsky, no cos'era? Come si chiamano gli aerei russi? Va a Napoli, non mi viene il nome, dimmelo tu. Caccia intercettore russo, Sukhoi 27, vabbè, poi ne siamo usciti gli altri che già facevano spavento quelli, adesso senza parlare degli ultimi ritrovati, oh yeah. era in colore di classe intercettore russo, che gli americani quando lo vedono si spaventano. No, ma guarda, non per dire, non perché abbiamo fatto noi, quel colore, non so se vi ricordate, li hai visti Carlo e Antonio, come sono colorati, sono più sull'azzurro chiaro gli aerei russi, non sono come i nostri scuri, sul verde, colorato. Poi sono delle tonalità tipo mimetizzate, però tendenti all'azzurro, non al verde, sono veramente bello. Li avevamo fatti noi, ma stiamo parlando grant'anni già, 30 anni fa, e cos'era? Il Kawasaki o Suzuki, cos'era? Sarà stato 96-97, dai. Sì, era praticamente è la classica mimetizzazione cielo, dai, con le varie tonalità di celeste. Infatti noi avevamo usato un celeste di panda 30, un celeste di panda 45, un grigio fondo e un bianco. Me lo ricordo. Poi è divenuto con mio cugino, con Franco Conti, te lo ricordi? E Dani Rossini, lo stesso, quel periodo l'avevo fatto anche a Dani Loller di Deviso. Affermativo. Cos'è l'idea della moto? Tutti quando si fanno le moto custom militari, tutti americani. Invece io, tac, infatti è rimasta unica e irripetibile. Ma cos'era? Kawasaki, ricordami, c'era Kawasaki o Suzuki? Kawasaki KZ750 del 1980. Sì, dall'agosto dell'80. Ciao, vai a tu. Bella, bella quella moto. L'ho vista in fotografia. Ma quella di Fabrizio, che ha fatto Fabrizio, non avete visto quell'altra, quella Honda CBF, mi pare che sia 550, mi pare. No. Bella, un artista, Fabrizio, veramente bravo. E ha fatto tutti i lavori, dalla meccanica alla verniciatura, tutto ha fatto un bellissimo lavoro. Sembra uscendo dal negozio. Quando uno lo sa fare, non c'è niente da fare. Quando uno sa fare i travagli. No, complimenti, ho fatto i complimenti per essere solo un appassionato, ha fatto un bellissimo lavoro, è venuto l'altro giorno in officina, me l'ha fatta vedere, ha fatto grandi complimenti. C'era Claudio che era a bocca aperta, sembrava facendo un negozio, anche le gomme, anche i particolari, le cosettine più impercettibili, proprio perfezionista al massimo, dove c'è la leva delle luci che ci sono in rosso nel manubrio, gli interruttori, ce l'ha tutti fatti evidenziati, proprio un lavoro maniacale, come serve fare. Proprio gli appassionati, veramente bello. E arrivo di volta, ma quella mi è piaciuta perché forse era l'ultima che ha fatto. Ok, di nuovo Carlo, tu ne hai moto, Carlo? Due macchine purtroppo, in una ci devo fare anche la distribuzione tra un po'. Guarda, se volete andare a Frolina sabato, domenica, venerdì, sabato e domenica, c'è una manifestazione, il 500 Club Italia porta, vengono da tutte le parti, il 500 c'è la nostra, quella che abbiamo fatto noi, la spiaggina, la regina del coso, della festa, infatti nel cartellone sarà presente la spiaggina, se vi capita di andare, poi vi tornate la risposta. Volentieri, se mi ricordo che ho il tempo, magari ci passo. Qualche giorno fa sono andato da molto che non salivo su dove c'è l'OVS, al primo piano che ci sono tutta quella serie di negozi, il bar, e c'è una piccola mostra delle Vespa, delle moto, ma carina, ci sono diversi modelli, ce ne sono anche di datate arrugginite pure in vetrina. Guarda, di quelle lì, quelle ha fatte un amico, la maggior parte sono di un amico di Walter, non Walter quello che conosciamo, un altro, la maggior parte le abbiamo fatte noi. Non sapevo le avessero messe adesso, perché le avevano messe l'anno scorso o due anni fa forse, sono ancora di lì, le hanno messe. Io ci sono andato due giorni fa, ci sono passato, ero con mia moglie e c'è l'esposizione, sono all'interno diciamo di una vetrina del negozio, capito? E c'è scritto Vespa 100 Italia, poi non mi ricordo come è scritto, però ce ne sono almeno una trentina. Moltissime le abbiamo fatte noi di quelle, ce n'è anche una tutta arrugginita, conservata, bella quella. Chi l'ho vista, è proprio quella stavo guardando io, è bellissima quella lì. Di un amico ne abbiamo fatto a quello lì, non penso meno di 10 di moto, di tutti i generi. E altre sembrano tutte a posto dal punto di vista carrozzeria, insomma, tutte parti originali, ho visto che hanno, insomma, carine, dai. Sì, sono belle bestie, belle moto, dai, una bella collezione. Ok, Gianni, a te il mic. Sì, mi ricordi, dai. Già, è stato bello, è stata una bella esperienza. Poi vabbè, farsi una moto personalizzata è stata una bella esperienza, con tutte le varie problematiche, i vari costi soprattutto. stiamo parlando fine anni 90, poi vabbè, le cose sono andate un po' a scemare, e quel tipo di cultura, secondo me ha preso una deriva, che a me non è mai piaciuta. È un sacco di cafonate, cose brutte, e poche cose di buon gusto, dai. Molte volte per abbellire qualcosa bisogna le fare invece di mettere. Adesso c'è la moto, molti, qualcuno viene a me a fare le modifiche, saldature, che le accorciano, li mettono, per dire, il muso di una moto, la forcella dell'altra, il telaio di quella, e ti, come si chiamano? Caffè Racer, così si chiamano, se non sbaglio, dimmelo tu già. Vabbè, Caffè Racer è quello stile inventato, cioè sono stati i primi i biker londinesi, no, che modificavano le Triumph, le Norton, levando i manubri tipo a farfalla, mettendo i mezzi manubri, le selle monoposto, accorciando i parafanghi. Sì, più o meno è nato lì. E poi vabbè, sono tanti tipi di customizzazione, c'è lo Street Fighter, cazzo, moto da paura, cazzo, gommoni grossi, scarenate super elaborate, dai, sempre naked. Ci sono tante scuole di preparazione, soprattutto a livello estetico, non so, dai. Però ti ripeto, non c'è secondo me il buon gusto di una volta, dai. Sì, confermo. Io sono di quelli che una moto deve ritornare, quando a me molte volte dicono fai quello, anche le macchine, restauri, a cambiare quello, no, lascia tutto originale, poi se ti vuoi divertire ti prendi una moto, te la fai come vuoi tu, però non te la fai stradare, però se uno ce ne ha diverso lo può fare quel disco. Ma io c'ho mio cugino così, già quello che ho nominato prima, Franco, che già lo conosci, chi è fissato a modificare le moto, sempre facendo modifiche, forcellando i suoi documenti, accorciando quello, gomme fatte in un altro modo, un altro sistema più largo, cose. A me non piace così, finché mi dici ne hai diverse di moto, dai, le dedichi una per fare questo scopo qua a livello estetico, ma lui le fa proprio per usarle. Sì, poi facciamo dietro ad Antonio, vabbè, diciamo che a livello di burocrazia, di legalità, già lo sai che il sistema è estremamente restrittivo, però se uno riesce, appunto, anche a causa del sistema restrittivo, a fare dei bei lavori estetici, anche cambiando quelle due o tre cosine, poi vabbè, lì a rischio e pericolo, perché se trovi il pignolo ti ferma, scende col metro e hai il bezzo, eh. Già lo so, a tu, avanti a te. Ma è così, purtroppo. Prima c'erano molti, adesso un po' di meno, preparatori pure di moto. Molto che corriani a macchina, adesso sempre di meno. A chi ti bizzigheggiano, ti rompono i ricattoli. È un casino. Qualcuno già c'è ancora. La prepara talmente bene che non te ne accorgi. Te ne accorgi poco. Un giorno quando forse buona pompata. No, a me piacciono le moto vintage, quelle vecchie, enormi sì, però se non c'è il tuo ti guardo un bel ricatto, una bella briglia, adesso c'è anche bello, hanno fatto il BMW, però dopo un po' tutti, a me piacciono le moto anni 50, anni 40, con i tributi, l'aerone, Benelli, quelli per te lo dico, anni 30, anni 40, le ho fatto anche 26, quando vedo una di quelle moto sono opere d'arte, la cura estetica. Mari non vedrai motori belli lucidi come l'ultima generazione carena, però è bello sentire quei motori che fanno 2500 giri con la fettatrice fuori tipo in busti, non so se ve le ricordate. A me piacciono quelle moto lì, ne ho un paio di moto di quel genere e va bene, avremo anche altri di una, avrò se lo sai, forse una decina, però quelle sono quelle che mi piacciono più di tutti, quel genere tipo la busti. Forse siamo dimenticati Carlo, adesso lo rilancia. Forse ormai ci siamo parlati sopra. Stavo dicendo che quando uscivamo all'epoca, io, Danilo, Franco, Cristiano, altra gente, Castelsardo, Alghero, in giro Bariloghi, quando noi parcheggiavamo davanti al bar, la gente ci fermava a fare le fotografie, perché ce n'era, era una più bella dell'altra. È già lo credo. Poi la tua era particolare, non vi nera, ne era quella moto strana, e Mario, tu gli facevi vedere un Kawasaki molto più bello, più moderno, e si guardavano la tua. Ok, Carlo, scusa, il monopolio avanti a te. Non è un problema, io stavo iniziando a fare i preparativi, perché tra un po' chiudo, anche se già sono interessanti le conversazioni stasera, ma tra un attimo vi lascio. Sì, sì, anche io sono per le moto vintage, quelle di un tempo, capito? Le cose moderne, super elaborate, diciamo, non è che non le guardo, le guardo lo stesso, però preferisco quelle di un tempo così come erano, capito? Tutto qui, benissimo, ne approfitto, così vi saluto, perché per me sta iniziando a diventare un pochettino tardi, infatti vi stavo ascoltando e mi stavo preparando le cose fuori dalla camera per non disturbare, perché io esco presto. Benemera, ciao Roberto, Gianni, Antonio, Tonino, sei ancora in ascolto, e tutti quelli che stanno ascoltando, ce la risentiamo, rimango in ascolto per il finale e buonanotte a tutti. Ok, riprendo io, dai, anche io sono un po' stanchino, sono partito presto stamattina, ho fatto un po' di chilometri. Saluto a tutti, ciao Carlo, ciao Antonio, ciao Gianni, ciao Tonino, che si è all'ascolto anche lui, e tutti gli amici di SWL. È stato un piacere ascoltarvi, sempre bella conversazione, abbiamo iniziato con gli aerei e abbiamo finito con le moto. Dai, ci sentiamo presto a tutti, ciao ciao, buonanotte. Ehi, dai, mi unisco anche io a voi, dai. Diciamo di ferri, come si dice a Sassari, dai. Grazie della compagnia e della chiacchierata, dai. Saluto in circolare a tutti, anche agli ascoltatori. Ciao Antonio, Carlo, Torino, Roberto, Marco, c'è ancora la radio accesa, e a tutta la truppa. Saluti a parte mia, buona serata, dai. Buona serata a tutti, buonanotte. Ciao ciao, buona serata a tutti, buonanotte. Chi è avanti?